diciamo che l'idea è partita da TM un po' di anni fa per cercare di fornire un servizio migliore alla sua clientela, perché normalmente tutte ormai le linee metropolitane nuove di nuova costruzione vengono dotate di questo servizio, anche se le nostre linee metropolitane hanno una certa età. Sì, perché parliamo di linee che hanno già 40-50 anni. Esatto, la linea 1 è stata aperta al primo tronco nel 64, la linea 2 nel 69, la linea 3 con i mondiali di calcio del 90. Il progetto per realizzare una rete di questo tipo, sì, è un progetto, lo mettiamo tra quelli semplici da realizzare, nel senso che fondamentalmente basta mettere una serie di antenne nelle stazioni, nelle gallerie e il gioco è fatto, o si tratta di una cosa piuttosto complessa? Diciamo che non è il massimo della complessità, però è un sistema certamente complesso, perché contiene vari elementi, nel senso le stazioni radio base degli operatori, il sistema di distribuzione in fibra ottica del segnale, quindi la conversione elettro-ottica del segnale per la trasmissione nelle stazioni adiacenti, e poi la riconversione in segnale elettrico e poi la distribuzione attraverso le antenne di questo segnale. Senta, quindi è una rete abbastanza complessa. Migliora anche la comunicazione per i vostri operatori, o già esistevano sistemi per cui non cambia nulla per chi guida il treno oppure per le squadre che sono al servizio? Allora, diciamo, perché guida il treno non cambia nulla, perché chi guida il treno, e anche in caso di situazioni di emergenza c'è una chiamata, aveva la possibilità di comunicare su un canale radio completamente indipendente, una rete privata, no? Nostra, le informazioni via radio, quindi comunicare. Quindi per quanto riguarda la guida del treno, i contatti con la sala operativa, non cambia niente. Migliora, per esempio, sicuramente per le nostre squadre di manutenzione, che manutengono la metropolitana di notte, che quindi è più facile collegarsi con loro. Ma come è realizzato tecnicamente e quali sono le particolarità di questo progetto? Noi abbiamo parlato con Piercarlo Giannattasio, che è l'amministratore delegato di ComsCon, la società che ha realizzato concretamente questo sistema. È una distribuzione basata sulla fibra ottica. Che cosa significa distribuzione fatta con la fibra ottica? Significa che ci sono vedo anche dei dettagli numerici, ci sono 9 locali tecnici che verranno realizzati nel corso dei prossimi 2 anni gradualmente. Da ognuno di questi locali tecnici il segnale viene convertito dal segnale radio al segnale ottico, viene trasportato in vari punti, ce ne saranno 230 punti periferici. In ciascuno di questi punti periferici di tutte le 72 stazioni sotterranee verrà trasformato nuovamente in segnale radio e tramite dei cavi coassiali distribuito a tutti i punti, quindi sia ai mezzanini, sia alle banchine, sia all'interno delle gallerie, con posa di ulteriore fibra ottica che arriva anche a coprire tutto. Quindi sostanzialmente alla fine del inizio 2010, diciamo, fine 2009, inizio 2010, per l'utente sarà assolutamente possibile fare tutto ovunque, questo gradualmente ovviamente. Questi oltre 200 punti che lei ci ha indicato sono sostanzialmente delle piccole antenne? Sono degli apparati che trasformano nuovamente il segnale da ottico a radio. Per ciascuno di questi 230 punti sono poi collegati dei cavi con più antenne, a secondo della tipologia della stazione, quindi diciamo il numero di antenne è anche superiore a 230, sicuramente almeno più del doppio, diciamo. Sono comunque da considerare nel loro insieme, come tutta la stazione saranno 30 celle. Quindi diciamo che per coprire una stazione sono necessarie tante piccole antenne di poca potenza, rispetto invece alle antenne tradizionali che sono distribuite sul territorio e sono normalmente di potenza medio-elevata. Sì, sì. Diciamo che è una distribuzione differente, che si utilizza solo in case di questo tipo o all'interno di edifici tipo il grattacielo Pirelli a Milano o lo stadio Meazza a Milano, per fare i principali esempi delle attività che facciamo noi. Sono servizi particolari in luoghi particolari. Senta, voi avete fatto il tutto basandovi anche su altre esperienze di altre metropolitane, naturalmente non solo in Italia, all'estero? Ma diciamo che la nostra direzione tecnica ha esperienze in altre metropolitane europee e anche extraeuropee, quindi nel definire il progetto abbiamo fatto sicuramente tesoro di alcune esperienze, abbiamo sicuramente verificato anche con gli operatori in modo anche interattivo alcuni parametri di controllo, cioè noi garantiamo dei livelli qualitativi del segnale che trasportiamo e restituiamo in aria. Però mi dà l'occasione per chiarire una cosa per gli ascoltatori, per evitare fraintendimenti. È uscito questa notizia dicendo che Carduse e Cairoli sono già coperte le stazioni, ed è assolutamente vero. Il servizio è talmente buono che tra le due stazioni si può anche parlare in galleria, ma è un di più, diciamo, di un progetto super robusto. In realtà il piano prevede che da qui alla fine dell'anno ci saranno anche Cadorna, Conciliazione e Pagano solo come stazioni. Le gallerie saranno assolutamente comprese, inizieranno da febbraio 2008 a essere coperte e da lì poi in parallelo sia stazioni che gallerie, con un ritmo di circa 3 al mese stazione relativa a galleria, si viaggerà per arrivare a coprirle tutte fino nell'arco di 24-30 mesi massimo.